Iniziamo la nostra serata dedicata all'autonomia, non è una novità nel senso che quest'anno chiaramente come anno in cui cade l'anniversario dei 50 anni della chiusura del pacchetto e dell'autonomia e delle nuove, insomma guardate, è un anno diciamo da un punto di vista dell'autonomia che incrocia più anniversari. E ci siamo detti come biblioteca, partecipiamo anche noi ad un percorso per illustrare, ricordare ma anche affrontare il futuro, e questo è il titolo infatti di questa conferenza. È la prima conferenza che dedichiamo a questo tema e ringraziamo tantissimo il professor Francesco Palermo per aver aderito a questo invito. Tra l'altro nelle biblioteche sta andando un progetto nelle biblioteche viventi cosiddette, dove in giro per l'Alto Adige si porta questo tema dell'autonomia. Noi torneremo ad affrontare il tema però con un taglio un po' più storico e così guardando anche il vicino Trentino, e la prossima settimana quando sarà l'occasione di ripercorrere anche le memorie di Giorgio Postal, che verrà su a Bolzano e sarà accompagnato da Maurizio Ferrandi, tra l'altro coautore di questo libro insieme a Francesco Palermo, uno degli ultimi, Il faticoso modello, per cui avremo anche questa occasione poi la prossima settimana di confrontarci di nuovo su questo tema. Ma intanto saluto veramente il nostro ospite, che ringrazio tantissimo perché questi giorni è impegnato con la divulgazione e la diffusione di questo argomento. Volevo leggervi brevemente la sua scheda, il suo curriculum, perché è lunghissimo e allora devo farmi aiutare da quello che è la parte più recente. Quindi è costituzionalista, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Verona, direttore dell'Istituto di Studi Federali Comparati di Eurac Research, è membro del Comitato Scientifico dell'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali, ha insegnato materie giuridiche in diversi atenei europei e americani e lavorato per l'OCSE, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, soprattutto in tema di diritti delle minoranze. Senatore dal 2013 al 2018, è stato membro della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Straordinaria per la Tutela e la Promozione dei Diritti Umani. È stato infine presidente della Commissione Paritetica dei Sei per l'attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, editorialista, e poi, come potete sapere, ha anche appunto pubblicato tantissimi libri, tantissimi saggi. Abbiamo anche una nota bibliografica con suggerimenti di lettura, approfondimenti. Qui mi fermo, lascio la parola al nostro ospite e soprattutto poi ci saranno gli spazi anche per le domande. No? Possiamo fare domande, vero? Direi. Anche i commenti. Anche i commenti. Benissimo, allora grazie. Grazie. Buona serata intanto. Grazie Valeria, allora mi abbandoni qui, va bene? Sì, ma sto vicina, No, grazie dell'invito. Direi che a maggior ragione possiamo concepire questa serata, questo incontro, come una chiacchierata. E io darò magari qualche impulso iniziale e poi sarebbe bello proprio parlarne insieme, e magari mi prendo più tempo nelle risposte che nella presentazione, che così ci annoiamo di meno e forse vengono fuori anche temi che possono interessare maggiormente. Lo ricordava Valeria adesso, questo è un anno particolarmente ricco di ricorrenze per quanto riguarda la nostra autonomia ed è una buona occasione per fare il punto. Devo dire che ormai siamo a tre quarti dell'anno e tutte le varie attività che sono state fatte hanno avuto un sguardo rivolto più al passato che al futuro, e questo ci sta fino a un certo punto, ma appunto spero che almeno l'ultimo terzo dell'anno possa essere dedicato anche ad una prospettiva di futuro e non soltanto di celebrazione corretta di quello che è stato fatto. In più vedo che, questo forse è il tema principale che mi piacerebbe discutere questa sera, vedo che l'analisi della situazione attuale tende a mettere in evidenza degli aspetti che a mio sommesso avviso sono meno significativi e a trascurare invece degli aspetti di cui faremmo bene a preoccuparci un po' di più, soprattutto in vista della tenuta futura dell'assetto istituzionale creato sostanzialmente 50 anni fa, con una buona parte che però risale a oltre 70 anni fa col primo statuto e poi alcuni adeguamenti che sono avvenuti nel corso del tempo. Perché dico questo? Perché innanzitutto c'è una tendenziale confusione, in qualche caso dovuta a superficialità, in altri casi voluta probabilmente, tra l'elemento dell'autonomia come strumento di autogoverno di un territorio e quello della tutela delle minoranze come elemento iniziale, come spunto, come motivo che ha dato origine a questa autonomia particolare. È chiaro che i due concetti sono intrecciati, soprattutto nell'esperienza dell'Alto Adige, ma è altrettanto chiaro che in molti casi si parla di autonomia avendo in mente la tutela delle minoranze e quindi soltanto un autogoverno concepito, gestito in funzione della tutela e della promozione di uno o due gruppi minoritari. Questo è un aspetto, ma vedendo solo questo si perde di vista il rimanente terzo, che è per l'appunto la gestione di una autonomia territoriale, nel senso che vale per tutti e il cui funzionamento è fondamentale anche per i gruppi che originariamente l'autonomia doveva tutelare. Allora, in pratica, avere uno sguardo un po' strabico alla questione dell'autonomia rischia di farci perdere di vista le regole di funzionamento migliore di questa autonomia e di conseguenza di produrre un possibile danno che andrebbe in primis a scaricarsi su coloro, cioè le minoranze, che maggiormente dovevano beneficiare di questa autonomia. E questo potrebbe essere un problema. E poi magari facciamo qualche esempio. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare è che per l'appunto si guarda più a fattori, adesso estremizzo un po', cosmetici, cioè dell'esteriorità dell'autonomia senza andare a vedere le sue strutture portanti. E le strutture portanti hanno bisogno di una manutenzione molto forte. Sarei impreciso e ingeneroso se dicessi che non è stato fatto nulla per le strutture portanti, ma adesso vedo in fondo alla sala due colonne che reggono la volta, direi che un po' di manutenzione si è fatta ad una di queste colonne e all'altra non se n'è fatta quasi per niente. Quali sono le due colonne di questo sistema che chiamiamo per comodità autonomia? Uno è l'autogoverno, l'altro è la tutela delle minoranze. Come dicevo, due colonne ugualmente importanti ma comunque separate, perché se ne viene meno una crolla tutto il palco. Si è fatta un po' di manutenzione, nonostante quello che ogni tanto si tende a credere, alla colonna della tutela delle minoranze, cioè dei rapporti tra i gruppi. Se ci pensiamo, nonostante la delicatezza del tema e le diverse visioni e prospettive che ci sono a questo riguardo, comunque qualcosa è cambiato. Non è mai stato fatto un censimento che avesse le medesime regole del censimento precedente. Allora, uno dei temi molto delicati, dibattuti, anche emotivi legati a questa specialità del territorio, si è evoluto costantemente. Lasciamo stare se nel modo giusto o nel modo sbagliato le opinioni possono divergere su questo, ma comunque si è evoluto. Pensiamo alla proporzionale, che è l'altra faccia della medaglia del censimento. Anche questa è cambiata moltissimo e sostanzialmente è quasi venuta meno in determinati ambiti. È venuto meno il criterio dell'attribuzione delle risorse in alcuni settori particolarmente sensibili, soprattutto l'edilizia abitativa, ad esempio. sono cambiate, insomma, veramente tante cose. Pensate ad un altro grande totem di questa specialità, la scuola, tema a cui siamo tutti naturalmente molto sensibili e così via, dove apparentemente la sacralità dell'articolo 19 è appunto un elemento quasi religioso, ma dall'altro lato, se confrontiamo, qui tutti abbiamo passato almeno i 40, forse 30, forse i 30, comunque tutti ci ricordiamo di qualche anno fa. Abbiamo tutti finito l'epoca scolastica, ecco, mettiamola così, bene, questo accettiamo, d'accordo, abbiamo tutti finito la scuola, e quindi possiamo tutti confrontare la scuola com'è oggi e com'era quando siamo andati a scuola noi. Quando siamo andati a scuola noi c'era una rigidità molto forte nel sistema scolastico, era molto raro che si frequentasse la scuola del, tra virgolette, altro gruppo linguistico. Il fenomeno delle nuove generazioni, dei nuovi cittadini era molto meno sviluppato. Adesso le scuole sono dei melting pot, e nonostante non sia cambiata la norma, è cambiata la struttura sociale sotto, è pieno di italiani, io dico sempre tra virgolette, naturalmente, italiani nelle scuole tedesche, molto meno tedeschi nelle scuole italiane, ma c'è questo fenomeno in periferia, in realtà famiglie miste, famiglie con background migratorio, eccetera, eccetera. Allora, come sappiamo, in una moltiplicazione, per avere lo stesso risultato, devono cambiare gli addendi, ma se cambia un solo addendo il risultato cambia lo stesso. Allora non è cambiato il quadro normativo, ma se è cambiato il quadro sociale su cui il quadro normativo si innesta, abbiamo una struttura scolastica totalmente diversa da quella degli anni 70, totalmente diversa. Allora lì la manutenzione non si è fatta, ma le cose sono cambiate lo stesso. Insomma, potremmo andare a vedere poi tutti gli altri ambiti, quante norme di attuazione sono state fatte, eccetera, eccetera. Su questo settore le cose sono cambiate. Addirittura uno dei rarissimi casi in cui è stato modificato lo statuto di autonomia, dove si è fatto per quanto riguarda la sacrosanta, da un lato, tutela del gruppo linguistico ladino, che si trovava inizialmente in una posizione marginalizzata in un'autonomia bipolare gestita tra i due gruppi linguistici maggiori e che poi era escluso da tutta una serie di cariche. Poi si è modificato lo statuto per consentire ai ladini di essere membri delle commissioni paritetiche, di essere membri del di essere vicepresidenti della giunta, di poter accedere anche alla vicepresidenza e in teoria anche alla presidenza del consiglio provinciale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quella colonna di là è stata, tutto sommato, con tante difficoltà e tanti errori, modificata. E dove non si è modificata, si è modificata la società sotto. Ma questo è un tema. Quello che è mancato completamente è stata la manutenzione dell'altra colonna, dell'autogoverno o dell'autonomia in senso proprio. Lì non si è fatto nulla, le strutture sono quelle del 48. Col secondo statuto di autonomia, di cui celebriamo il 50°, si è semplicemente portato tutto il nucleo delle competenze dalla regione alla provincia, per semplificare. Poi nel corso dell'attuazione successiva si sono acquisite delle ulteriori competenze sempre a livello provinciale, ma la macchina per guidare questo autogoverno è rimasta la stessa. Addirittura in provincia di Trento è stata introdotta l'elezione diretta del presidente della giunta provinciale, come in tutte le altre regioni italiane tranne la Valle d'Aosta, mentre in Alto Adige è rimasta, secondo me, volete la mia opinione personale, per fortuna, ma è rimasta l'elezione consiliare del presidente della provincia. Cioè esattamente lo stesso schema di governo, la stessa governance, la stessa macchina istituzionale che c'era già nel 1948. Ora, Dal 48 sono passati un po' di anni, la politica funziona in modo molto diverso, poi magari nella discussione parleremo anche delle incombenti elezioni. La velocità con cui le decisioni devono essere prese è cambiata radicalmente, le modalità con cui si gestiscono le cose sono cambiate radicalmente, la prospettiva delle persone è cambiata radicalmente. C'è un esempio che mi piace fare spesso, ma credo che sia molto indicativo, non è la prima volta che lo dico, c'è anche in questo libro che Valeria ha avuto la bontà di menzionare, il modo diverso con cui ci si atteggiava nei confronti del potere. È un elemento quasi sociologico più che giuridico, allora non vorrei uscire dal mio ambito di competenza, ma quando la SVP si lacerò sul pacchetto e arrivò ad una decisione molto sofferta nel novembre del 69, spaccandosi praticamente a metà, quando Magnago mise la sua voce, la sua testa politica sul piatto, spendendosi in prima persona con il suo partito, dicendo: io ho un accordo, vi garantisco io che questo accordo sarà rispettato, perché aveva fatto tutta una serie di accordi con i governi romani e con i partner in Alto Adige. La decisione non è stata semplice, ma dal giorno dopo si è cominciato a collaborare. Nel momento in cui il 51% ha deciso a favore del pacchetto, da allora tutti, tutto sommato, hanno obbedito. Oggi non funzionerebbe più così, perché siamo persone diverse, tutti, rispetto a 50 anni fa. Ci sono i distinguo, ci sono i tweet, ci sono la volontà di profilarsi, la stampa funziona in modo diverso, non funziona più così, nessuno ubbidirebbe più semplicemente perché il capo ha parlato e si è impegnato per tutti. È un dato di fatto, piaccia o non piaccia, ha anche i suoi vantaggi, perché insomma dà una maggiore libertà, un po' di anarchia in più, tutto sommato non fa male, ma semplicemente le cose funzionano in modo diverso. C'è stata una profonda riforma della Costituzione che è passata, almeno dal punto di vista formale, come se fosse acqua fresca rispetto al nostro statuto di autonomia. Si sono fatte norme di attuazione, in qualche periodo di più, in altri di meno, ma tutte su questioni tutto sommato marginali, e lo dico anche da, appunto, protagonista di questo sistema, perché durante la mia presidenza si è lavorato moltissimo, perché c'era un clima politico che consentiva di farlo benissimo, niente in contrario alle norme di attuazione, ci mancherebbe altro, ma non è tutto qui, non può esaurirsi tutta qui l'autonomia. Il numero delle leggi provinciali tutto sommato si è ridotto. Uno pensa che un'autonomia così ampia sia un'autonomia che si esercita poi attraverso, appunto, il potere di farsi le proprie leggi. Autonomia, l'etimo della parola è questo. E invece no, facciamo meno leggi provinciali di quanto se ne facessero negli anni 80. Strano. Senza contare la qualità di queste leggi, che spesso è pessima. Ed è pessima per motivi anche di tipo politico, non perché non si sappiano scrivere le leggi, anche se diventa sempre più difficile perché è tutto un ritaglio, uno slalom tra normative sempre più dense, ma perché è più facile incolpare il governo centrale che impugna una legge che non sta palesemente in piedi, ma è più facile dire: noi l'abbiamo fatta qui e sono cattivi a Roma perché l'hanno impugnata e ce l'hanno cassata e in questo modo sono contro l'autonomia, piuttosto che dire: ragazzi, facciamo una legge che funzioni e che quindi abbia anche delle prospettive reali di funzionare. E ce ne sono tanti di questi esempi. Non abbiamo un sistema di controllo preventivo di queste leggi, per esempio, cosa che altre regioni, quasi tutte le regioni ordinarie, hanno introdotto, cioè avere un organo che guarda un pochino le leggi prima, cerca di correggerle in corso d'opera, proprio alla luce magari della giurisprudenza della Corte Costituzionale, e dire: vabbè, insomma, forse è meglio che la scriviamo così, così evitiamo l'impugnazione. Non c'è un sistema di adeguamento alla normativa europea, salvo poi andare di nuovo a protestare. C'è una delle norme di attuazione più contestate che non si riesce mai a chiudere, che è quella degli orari dei negozi, Qui si dice no, gli orari dei negozi li dobbiamo decidere noi. Va bene, si poteva fare, sì, perché c'era una competenza prevista per la provincia. Quando è arrivata la direttiva europea non si è intervenuti con una legge provinciale come si sarebbe potuto fare, è intervenuta la legge nazionale all'epoca del governo Monti, che è stata iperliberista e ha occupato lo spazio per le regioni. E poi è tutto un andare a rincorrere e dire ecco il governo Monti è cattivo. Sì, il governo Monti sarà stato cattivo, ma in realtà si potevano esercitare dei margini di autonomia. Allora l'autonomia è più declamata che esercitata. E questo forse, l'autonomia in senso di autogoverno, e questo forse non fa tanto bene all'autonomia stessa, perché poi ci si abitua all'idea che basti prendere il frutto sotto l'albero, perché è sempre maturo, ti cade in testa, senza ricordarsi che invece bisogna lavorare sui campi, coltivarle le cose, i frutti sono il prodotto di un lungo lavoro. Quindi a lungo andare, diciamo, questa cosa non regge più di tanto. L'ultimo esempio, e magari chiudo su questo così poi dopo apriamo un po' una discussione, che fa preoccupare parecchio, è qualcosa che di nuovo non c'entra nulla con i gruppi linguistici, o diciamo i gruppi linguistici c'entrano magari solo dopo indirettamente e non necessariamente in modo positivo, ed è l'esempio che abbiamo avuto dalla pandemia, che è un campanello d'allarme, ma la pandemia ha consentito, leggi alla mano, di intervenire in maniera drammatica come uno schiacciasassi sulle competenze autonome di questa provincia e delle altre regioni sulla base dell'emergenza. Un'emergenza che tra l'altro non è regolata nemmeno dalla Costituzione nazionale, ma da una legge ordinaria, che è il Codice della Protezione Civile, una legge ordinaria che prevede che il governo, qualora ritenga che esista un'emergenza di carattere nazionale, ma a sua discrezione, può, informato il Parlamento, cioè senza nemmeno ottenere preventivamente un'autorizzazione del Parlamento, ma semplicemente informandolo, dichiarare lo stato di emergenza. In base allo stato di emergenza, ci ha ricordato la Corte Costituzionale, fa qualunque cosa. Le competenze previste nella Costituzione e nello Statuto vanno a farsi benedire e finché dura questa emergenza, che può durare fino a 2 anni, niente, si fa come decide il governo. Per carità, l'emergenza pandemica era tale, non è successo niente di tragico per quanto riguarda le nostre competenze, ma la prossima volta che cosa succede? La prossima emergenza è quella seria, perché fino adesso abbiamo scherzato con la pandemia, la prossima emergenza è quella climatica. Come facciamo? Ci sarà qualcuno che va, che si prende la responsabilità di dire si chiudono le piste da sci perché sono ecologicamente non sostenibili? Chi lo farà? Chi ha la competenza di farlo? Provoco ovviamente, però spero che non succeda, mi piace andare a sciare, però il problema c'è. Come facciamo? Abbiamo una macchina istituzionale che ci consente di sapere chi può fare che cosa? No, non ce l'abbiamo. Cosa è successo finita la pandemia? Che, come dice il proverbio, passata la festa, com'era? Gabbato lo santo. Ci ritroviamo al punto di prima, nessuno parla più di aggiornare né la Costituzione su questo, e ne avrebbe un gran bisogno, né lo Statuto. Siamo lì in attesa che arrivi la prossima cosa. La prossima cosa, che peraltro già si intravede, ed è la gestione dei fondi del PNRR, che è totalmente centralizzata. Le regioni sono al massimo enti esecutivi di gruppi di lavoro che stanno insediati al governo, e non cambierà col prossimo governo, qualunque colore esso abbia, perché comunque è un percorso già definito. E con la digitalizzazione è una cosa che chiunque abbia esperienza di lavoro sulle cose sa che non c'è niente di più antifederalista della digitalizzazione, è una cosa terrificante. Si fa così perché lavoriamo tutti attraverso il computer, e questo è un fattore di uniformazione pazzesca. Allora, non dico che non ci debba mai essere l'uniformazione, su alcune cose può anche avere senso, però le sfide dell'autonomia sono molto diverse da quelle che avevamo negli anni 70, 50 anni fa, all'inizio degli anni 70, quando si approvò il secondo statuto. Ne stiamo parlando? Non ne stiamo parlando. Abbiamo parlato di qualcosa e abbiamo aggiornato qualcosina con riferimento al, diciamo, tutela delle minoranze, il rapporto tra i gruppi linguistici, che può essere migliorato, eccetera, eccetera. Di questo non voglio entrare nel merito delle opinioni, poi possiamo farlo adesso nella discussione. Ma quello che mi preoccupa e il messaggio che vorrei lanciare alla fine di questa introduzione è che invece se si lascia crollare per mancata manutenzione l'altra parte, quella dell'autogoverno, alla fine rischiamo di trovarci, nella migliore delle ipotesi, con un'autonomia così più apparente che reale, nella peggiore delle ipotesi con il tetto che ci crolla in testa. Ecco, forse dovremmo anticipare un pochino, siamo ancora in tempo, ma ogni giorno che passa senza questa necessaria manutenzione di tutta l'infrastruttura, che si può fare anche in molta parte senza modificare lo statuto, anche se forse una riforma dello statuto sarebbe sicuramente la via più pulita per farlo, senza questo avremo un problema in futuro. Ecco, non vorrei che facessimo i grilli parlanti per questa sala. Io mi fermo e chiacchieriamo adesso, perché penso che ci possano essere magari commenti, idee, domande, qualunque cosa. Grazie intanto. Beh, posso rompere il ghiaccio? Certo. E chi dovrebbe prendere in mano questa situazione e iniziare la manutenzione? Perché che mi sfugge. Sono i partiti, sono le istituzioni. Chi ha il maggiore interesse? Chi ha il maggiore interesse è evidentemente il livello provinciale. Allora, innanzitutto non possiamo aspettarci, anzi spererei che non fosse mai così, un'iniziativa da parte del governo nazionale, perché questo interesse non ce l'ha evidentemente. Sul piano provinciale, allora certo è un tema che riguarda la società nel suo complesso, per cui dovrebbe riguardare, insomma, un ambito più ampio rispetto alle sole istituzioni, però chi ha il polso dei problemi e delle difficoltà è l'amministrazione, insomma, sostanzialmente. Certo, dovrebbe essere un percorso a cerchi concentrici che parte almeno dalla diagnosi, e la può fare realmente soltanto l'amministrazione nel cerchio ristretto, e poi si allarga alle altre istituzioni, in primis al Consiglio Provinciale, cioè all'assemblea elettiva democraticamente legittimata, e poi alla società civile. Però direi che il motorino d'avviamento non può che essere dell'amministrazione provinciale, quindi nella giunta, che è, diciamo, poi tendenzialmente una volta, adesso forse non più, ma e dopo le prossime elezioni meno ancora, ma comunque più o meno coincide con un partito, quindi per rispondere alla domanda, sì, poi in parte anche indirettamente anche i partiti, ma poi in realtà è uno. È una bella domanda. E secondo me ci sono diversi fattori che concorrono. Da una parte c'è, come sempre succede nel mondo, anche un accontentarsi. Un'altra, esattamente, poi c'è chi ne approfitta, c'è chi, ovviamente, c'è sempre, in una società c'è sempre chi sta dalla parte, diciamo, del privilegio e chi meno, ma questo è normale, diciamo. Quindi una parte è questa, diciamo, perché devo farmi il problema? Intanto comunque sta in piedi, mi preoccuperò più avanti, magari se ne occuperanno le prossime generazioni, magari adesso c'è altro da fare, indubbiamente anche la politica, come tutte le altre cose, è diventata una corsa, per cui ci sono troppe cose rispetto al tempo a disposizione. Un altro motivo è che in generale manca la capacità prospettica. Non è solo un problema in Alto Adige, anzi è un tema che vale un po' dappertutto, ma riuscire ad anticipare, chi di solito anticipa i cambiamenti sono delle piccole sparute minoranze, E quindi è difficile che si riesca a convincere, diciamo, una fetta più ampia della popolazione, della società politica, che sia necessario farlo. Una terza questione, secondo me, è anche dovuta a una certa inerzia. Cioè, noi viviamo così, no? Ci penseremo più avanti. È un po' modo di fare italiano, che scusate, sì. Dell'Italia, che però qui in Alto Adige noi pensiamo sempre di essere meglio, però poi per alcune cose ci uniformiamo un po' alla... Sì, sì, finché la barca va, così si va. Diciamo così, in Germania tante cose avvengono se si pensa, si ha una visione proprio di lungo raggio, lungo respiro. Però appunto l'ultimo punto è proprio che è difficile trovare poi l'accordo sulle cose, perché poi non è... Ne parlavamo proprio con lo stesso esempio che era venuto fuori alla biblioteca civica l'altro giorno. Era... già è abbastanza difficile progettare una infrastruttura. Prendiamo un ponte, abbiamo questo grande ponte che ha già tutte le sue difficoltà da essere tenuto in piedi. Noi dovremmo aggiungere, oltre alle difficoltà tecniche di questa cosa, l'elemento politico. Cioè, dice, va bene, ma come lo facciamo poi questo ponte? Dove vogliamo andare? Allora, siamo tutti d'accordo magari che c'è un rischio per la tenuta a lungo termine dell'autonomia, però il come intervenire, il che cosa fare, è molto politico, non c'è la ricetta automatica, o meglio, tecnicamente c'è, perché su come fare le leggi non è che ci sia bisogno di una grande discussione politica, c'è una tecnologia normativa. Però in questo ambito, a differenza magari di altri, diciamo, su questo ambito influisce tantissimo la prospettiva politica. Il fatto che per la politica deve essere possibile creare una struttura che stia in piedi anche se la fisica dice che non sta in piedi. È il bello e il brutto della politica, se vogliamo, per cui è un elemento estremamente complesso, e quindi in politica, anche se ti si dice guarda che questo ponte fatto così non sta su, la volontà è di farlo stare su, e qualche volta addirittura succede il miracolo che si stravolga la legge della fisica. Però certamente un ultimo aspetto, se posso, quindi se, tra i tanti, un ultimo aspetto che un po' mi disturba, a dire la verità, è questa religione del pragmatismo. Io non so, ma la politica, proprio parlando di quello che adesso abbiamo detto, dovrebbe avere anche delle visioni, altrimenti che ci sta a fare? Cioè, c'è la politica, c'è l'amministrazione, c'è tutto il resto. Se la politica diventa semplicemente l'esaltazione del pragmatismo, cioè di una sorta di gestione amministrativa, nella migliore delle ipotesi una discreta gestione amministrativa, che poi è quello che sta succedendo anche in questa provincia, manca l'afflato prospettico di sapere dove vogliamo andare, di che cosa vogliamo fare. E qui devo dire, questa cosa è soprattutto con l'ultimo, diciamo, l'ultima fase del governo Duonwalda, e poi si è trasferito anche nell'epoca successiva, c'è stata questa equiparazione tra pragmatismo e positivo. Cioè, un politico pragmatico è bravo, cioè, io sono pragmatico, votatemi perché sono pragmatico. Ma è un'altra cosa, il pragmatico intanto era un filosofo una volta, i pragmatici, ma non mi sembra di vederne molti. Ma soprattutto un conto è la capacità amministrativa, e va bene, allora io sono capace di amministrare, che già è un'ottima cosa, ma poi mi devi dire anche quali sono le idee che vuoi avere. Non può essere il pragmatismo un fine a se stesso, e questo ormai è diventato, e noi l'abbiamo tutti assorbito come se fosse una cosa positiva. Io sono pragmatico, vuol dire io sono bravo, quell'altro è un chiacchierone. però adesso provocatoriamente ci sarebbe bisogno anche di qualche chiacchierone, cioè, per questo la politica non può essere fatta da una sola persona, perché o c'è il chiacchierone incapace o c'è il pragmatico che non vede al di là del suo naso. Quando c'erano i partiti, quando la politica era strutturata in un altro modo, c'era lo spazio per le visioni, per l'attuazione, per il compromesso, eccetera. Adesso diventa tutto molto più difficile, per cui è un materiale molto difficile e delicato da maneggiare, per questo è molto difficile. Quindi la domanda sì è molto rilevante, ma ci sono secondo me tantissimi fattori che concorrono a rendere molto difficile la possibilità di prendere in mano questo processo. Però se non lo facciamo siamo nei guai tutti. C'è stato un paio d'anni fa tutta una serie di incontri sull'autonomia delle varie forze, delle varie categorie cittadini, e poi dopo cosa si è fatto per poter contribuire poi concretamente? Sì, quello è stato un esempio interessante, perché era il primo passo di un processo che poi tra l'altro si sta anche piano piano espandendo ad altri settori. Alcune leggi sono state fatte in modo partecipato, anche quella sulla democrazia diretta, quella sull'urbanistica, qualcosa si è fatto. Però l'idea era che per alcuni era l'idea facciamo finta di far partecipare ma poi dimentichiamocene il prima possibile, per altri era questo risolverà il problema, lasciamo che la società ci dica che cosa dobbiamo fare. No, non è così, è un percorso lento, va per gradi, si fa un primo passaggio che è stato fatto, si vede cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato, se ne fa un secondo modificando le cose e piano piano ci si arriva. Se no qui si è dimenticato subito tutto, via, lasciamo stare, e allora a quel punto non valeva neanche la pena di fare il primo di questo passaggio, ma perché manca la cultura della gradualità di questa cosa. Sono nuovi strumenti, quelli partecipativi, che vanno rodati, sperimentati, ma non sono prescindibili, perché non c'è più quella società politica che poteva fare la sintesi da sola, ormai non c'è più e non si ricostituirà, e quindi non si può fare a meno di passare da queste altre forme, ma bisogna impararle, e anche qui bisogna darsi il tempo e anche fare, sarebbe come dire, metti una persona sui pattini da ghiaccio e non sa pattinare, sbatte il sedere per terra e allora dice no, non lo faccio più, però lo fai la seconda volta, la terza volta e poi sai andare, ed è così un po' per tutto, insomma, i bambini che imparano a camminare. Questi adeguamenti, queste variazioni che lei ripeteva sono avvenuti tutti questi anni, variazioni delle norme, lo statuto, è un adeguamento alla situazione che si verificava man mano, oppure è un miglioramento o addirittura è più negativo rispetto a quella quando è nata la prima, diciamo, edizione, era adeguata a quei tempi là, perciò adesso avvenuta variazione fondamentale della situazione della gente, lo statuto avrà dovuto adeguarsi, oppure l'inverso, che la gente non accetta più così passivamente. La maggior parte delle norme sono reattive, non sono propositive, cioè reagiscono a una situazione contingente, a un problema che c'è. In qualche caso, e il caso era sicuramente quello del secondo statuto di autonomia, quello era stata la reazione a quello che stava succedendo, cioè non funzionava la cosa, ma aveva dentro una prospettiva anche futura, cioè si dice benissimo, reagiamo a questa cosa, ed era essenzialmente uno statuto di separazione tra i gruppi, mettiamo un po' di ordine e cerchiamo di risolvere il problema che c'era allora, però anche con una scommessa sul futuro che è risultata una scommessa vincente, dicendo vabbè, però andiamo, se riusciamo a canalizzare i conflitti qui con norme di questo tipo, riusciremo ad andare più o meno in una direzione pacifica, e questo ha funzionato. Allora, questo è un caso positivo, diciamo, di una norma sì reattiva, ma con dentro anche la capacità di adattarsi. È un po' come quelle cosa, adesso entro in un altro campo che non è il mio, ma lo medico, ma quando si fanno, ti mettono i punti, no? E i punti sono sicuramente reattivi al problema che si è creato immediatamente, ma sono i punti che poi si sciolgono da soli, e poi alla fine, se va tutto bene, il paziente viene curato. Ci sono delle altre norme, invece, sono purtroppo la maggior parte, che sono totalmente reattive, cioè c'è il problema, l'emozione legata a quel problema, facciamo la norma che finisce in quel momento lì e già il giorno dopo non serve più. Oppure sono delle norme addirittura di tipo simbolico, e ce ne sono sempre di più di questo tipo, delle norme così manifesto, che servono a poco, perché poi quando bisogna applicarle non sono fatte neanche bene. Però direi quasi sempre si parte soltanto dalla reazione. E sarà così. Io avrei una curiosità, le sue analisi, i suoi studi, perché so che lei appunto lavora per l'Europa, come vengono accolte dalle istituzioni? No, non lo so, a dire la verità. Allora, direi complessivamente bene, nel senso che se ne parla poi, ci sono dei momenti di confronto anche con decisori politici, in qualche momento c'è la possibilità di approfondire, adesso non vorrei, no perché ho il microfono, non lo posso dire, qualche volta si va a parlare con il presidente della provincia piuttosto che con esponenti politici, e se la politica è intelligente ha una grande possibilità di utilizzare la società gratuitamente, tra l'altro, no? Sono quelle cose. Io ho sempre detto, quando ho fatto un'esperienza politica, la cosa più bella era poter interagire con persone esperte di diversi ambiti, e nella politica li vedi quasi a 360 gradi, anche di cose di cui non mi sarei se non mai occupato nella vita, per poter imparare e poi chiedere un consiglio gratis, no? E di solito funziona così, è una cosa molto bella. Non sempre lo si fa, però insomma un pochino sì. Il fatto è che poi tutto viene travolto dalla contingenza, cioè quando magari ci si trova a fare due chiacchiere, a mettere nero su bianco tutta una serie di punti e di cose che si potrebbero fare, poi dopo non so cosa succeda di quelle cose, poche, ma ogni tanto qualcuna esce dal cassetto, viene fuori così, eccetera. E poi se ne parla sempre a livello più individuale che a livello collettivo. Cioè, faccio un esempio così banale, magari io concretamente vengo chiamato e vado a parlare col presidente della provincia, con l'assessore Tizio Caio, ma non c'è un'audizione del consiglio provinciale, che è l'organo pubblico dove dovrebbe farsi il dibattito, per dire vabbè, cosa facciamo con la qualità delle nostre leggi? Zero. Allora, ho risposto? Non lo so, non so se ho risposto. Si potrebbe fare in maniera molto migliore, e in questo ambito e in tanti altri ambiti, perché si fanno delle leggi in settori dove c'è bisogno di competenze specifiche, non mi risulta che si invitino molti geologi a fare, quando si deve parlare delle leggi sulla gestione del territorio. Ed è un peccato, questo è un peccato, perché verrebbero gratis. Si parlava della sostenibilità, so che uno degli obiettivi... Ti è venuto in mente perché ho detto gratis, no? Ah. C'era la polemica sui compensi dei relatori. Sì, esatto, parlando di pensare alla sostenibilità, al fatto che uno dei 17 obiettivi è quello di istituzioni forti, nel senso di sane, stabili, attive per il bene comune, no? E mi domandavo se la provincia, questa autonomia, anzi più che la provincia, è ancora sostenibile in quest'ottica, e o se non sia troppo energivora, pensando anche in termini di energie che dispendi, di impegni, questi anche molto pragmatici, come si diceva prima, poco lungimiranti. Perché un aspetto anche che hai toccato era il discorso di prevedere un futuro, di avere una visione, che oggi come oggi è difficile, forse non è difficile un po' per tutti. Allora, la provincia ha dato un incarico, per esempio, all'Eurac, che ha prodotto uno studio sulla sostenibilità. È un'idea, una prospettiva, una visione, si vede. Vedremo cosa sarà applicato, però l'ha fatto, insomma già una cosa buona. Adesso si sta lavorando al rapporto sull'autonomia, vediamo che cosa verrà fuori, insomma non mi aspetto granché, ma insomma comunque sempre meglio di niente. Il problema è che ci sono interessi confliggenti ed è molto difficile fare una valutazione, è qui dove c'è bisogno della scelta politica. Esempio, uno è la questione banale almeno in teoria, tra le esigenze dell'ambiente e quelle dell'economia. Pensiamo al turismo, lo sci, le cose che diceva adesso. Bisognerà trovare un compromesso, evidentemente, perché tutte e due le cose. Ed è un compromesso difficile che richiede delle scelte che devono essere basate su dei dati e poi dopo però c'è bisogno del coraggio politico di prendere una decisione. Un'altra cosa ancora è il potenziale conflitto che si può avere tra diversi ambiti dove devi fare una scelta di investimento. E l'esempio, l'aeroporto. Allora, sicuramente non è una scelta particolarmente sostenibile dal punto di vista ambientale. Per quanto si facciano grandi progressi, certamente c'è più impatto ad avere un aeroporto che a non averlo. Lasciamo stare il referendum che si era fatto, che è stato un esempio di truffa sostanzialmente, perché si pensava di votare, o almeno si è pensato di votare sull'aeroporto e invece si parlava del finanziamento pubblico all'aeroporto, tant'è che infatti l'aeroporto c'è, gli aerei funzionano, vabbè, lasciamo stare. Ma il tema c'è. Allora, anche l'aereo meno inquinante del mondo è comunque più inquinante di nessun aereo. Però poi devi vedere gli effetti di sistema. Non avere l'aeroporto implica maggior traffico privato, che in proporzione è molto più impattante dell'inquinamento aereo. Lì ci sono degli studi, io non lo so, ma si può valutare questa cosa. È meglio perdere qualcosa sul piano della tutela ambientale e guadagnare di più dal punto di vista non dei turisti che arrivano, ma della circolazione delle teste, del fatto di aprire questo territorio che si trova in una posizione geografica non facilmente raggiungibile e quindi poter portare dentro dei cervelli un pochettino che ci aiutino. Questa è una valutazione, questa addirittura è una valutazione dove non ci sono nemmeno i dati, non li puoi fare. Devi scommettere e devi fare una scelta politica di dire: ragazzi, va bene, posto che vogliamo gli aerei più ecologici possibili, così eccetera, io accetto di perdere uno 0,01 di tutela ambientale per guadagnare qualcosa dal punto di vista appunto dell'apertura della società. Sì o no? Dopodiché lo si pone però come alternativa reale e su questo poi si crea il consenso. È difficile però, è molto difficile, perché poi ci sono tutte le diverse pressioni, le categorie, questo, quell'altro, e alla fine non si fa niente, oppure si fanno le cose a metà, tipo questa roba dell'aeroporto, che alla fine che cosa ha portato? Un referendum inutile e il fatto che la provincia sia stata costretta ad uscire. E io sinceramente mi sento più garantito dall'ente pubblico che gestisce un aeroporto piuttosto che dal privato, che evidentemente lo fa per ragioni di interesse. La cosa sembra funzionare, non se ne parla. Anche qui l'effetto di sistema è: se lo gestisce la provincia o lo sovvenziona la provincia, la stampa continua a mettere i riflettori. Da quando lo gestisce un privato, silenzio, fantastico. Il privato si può permettere delle cose che l'ente pubblico non si può permettere, anche in termini di visibilità. Ora, io personalmente sono contento, io ero personalmente abbastanza a favore dell'aeroporto, perché non soltanto perché io viaggio tanto, ma non è una questione mia personale, ma proprio per la questione di avere molto ricambio. Se però sono soltanto turisti, beh allora no, cioè non mi importa tanto di avere l'aereo di Düsseldorf, sinceramente, soltanto per portare i turisti che vengono a sciare. Questo magari non è il massimo, però avere delle connessioni invece che ti possano consentire di andare nel mondo e di far venire soprattutto persone, mi sembrava una cosa tutto sommato utile. Però ripeto, è una scelta politica. Come la risolviamo con quello che si diceva prima? Siamo pragmatici, sì, siamo pragmatici, ma questa scelta è una scelta che va fatta, non c'è la scelta pragmatica. Rispetto alle altre autonomie, tipo Valle d'Aosta, non è la Valle d'Aosta, insomma, perché fisicamente è la più vicina a noi. Rispetto alle altre autonomie, la nostra autonomia. È messa meglio, direi. È messa meglio perché alcune hanno praticamente alzato bandiera bianca. Sostanzialmente le autonomie speciali in Sicilia e Sardegna non esistono più, perché sono completamente legate al finanziamento statale di qualsiasi cosa, per cui al massimo l'autonomia è così, gestione a livello locale di alcuni potentati, di alcune cose, non so, sostanzialmente. E quindi di conseguenza, se lei in Sicilia si professa autonomista, è come dire sono mafioso praticamente. Sì, perché no, per carità, se facciamo controllare le cose, le gestiamo qui dove ci sono magari le infiltrazioni o ci sono i gruppi di interesse più piccoli, meglio che le controlli Roma, che è più lontana ed è meno permeabile. Purtroppo è così. Qui c'è una cultura molto più forte dell'autonomia, che è, appunto, qui si discute anche troppo di questi temi, insomma la cittadinanza partecipa molto. Rispetto alle altre autonomie del nord, sono tutte molto diverse tra loro. Il Friuli Venezia Giulia sostanzialmente ha anche qui una dotazione finanziaria molto inferiore alla nostra in proporzione e quindi anche un margine di intervento più ridotto, oltre a non avere partiti territoriali come qui che guardano soltanto, diciamo, l'interesse locale, sono comunque partiti nazionali e vivono nella logica nazionale. La Valle d'Aosta è quella che aveva una situazione più simile alla nostra, forse saprà che il partito omologo, diciamo omologo della Volkspartei, che si chiama Union Val d'Autun, che esiste ancora, si è completamente corroso, si è sfaldato completamente, per cui manca quell'unitarietà politica che c'era stata una volta e che adesso non c'è più. Inoltre la Val d'Aosta ha perso moltissimo dopo la crisi finanziaria, il suo bilancio si è quasi dimezzato rispetto a quello precedente, mentre in Alto Adige siamo ad un bilancio provinciale che è più alto di quanto fosse prima della crisi del 2008-2012, quindi diciamo le cose vanno sicuramente molto meglio. Qual è il rischio però? È che se l'autonomia diventa qualcosa che riguarda sostanzialmente un solo territorio, cioè in Italia ormai riguarda solo la provincia di Bolzano, in parte forse quella di Trento, ma allora non lo so, rischia di isolarsi sempre di più. L'autonomia funziona se c'è per tutti, non è una torta che se la mangio io non la mangi tu, c'è spazio per tutti se c'è una cultura dell'autonomia per tutti i territori, allora anche al centro si guarda l'autonomia. Se invece l'autonomia è sinonimo di vabbè, quelli lì in Alto Adige lascia che facciano, diventa qualcosa di più arido sia per questo territorio sia per tutto il sistema in Italia, perché sarà sempre l'eccezione, invece dovrebbe diventare la regola per funzionare bene. E poi scatta la questione, il privilegio e tutte le questioni che sentiamo. Sì, sì. Posso andare fuori? Io e qualcosa in giro. Allora, volevo solo portare la mia, per richiamare quello che diceva il dottor Palermo, che era molto interessante. La mia esperienza è stata quella di fare... Posso chiedere di usare il microfono, così sentiamo un po' tutti e rimane... E tutte le cose prima senza... più squillanti. Sì. Poi si gira. Cioè, l'esperienza di come è stata gestita questi 50 anni di autonomia tra Bolzano e Trento. Quindi a Bolzano è stata gestita tutta in chiave ovviamente etnica e autocelebrativa. Siamo stati bravi, abbiamo avuto l'autonomia, ce la siamo conquistata e ovviamente questa visione è stata gestita tutta dalle scuole, chiaramente. Andando a Trento invece e partecipando a una serie di convegni, fra le altre cose vi invito veramente a venire il 30 per la presentazione del libro di Giorgio Postano, che è stato deputato e senatore di Trento e ha passato tutto questo periodo. Ed è una visione, ed è molto importante sentirlo, perché hai la visione dell'autonomia vista da un trentino, che secondo me è importantissimo. Poi lui non è proprio trentino perché ha un occhio particolare per l'Alto Adige, lo aveva, lo ha ancora, e quindi lui ti fa vedere alcune cose che noi, vivendo a Bolzano, sempre immersi nel problema etnico, ci siamo completamente persi per strada. Ed è il concetto proprio della visione solo etnica delle famose due colonne. A Trento invece mi ha stupito perché loro ovviamente hanno incominciato a scavare che cos'era l'autonomia. E quindi loro nei vari convegni ti fanno vedere che il concetto di cultura autonomista che non hanno in Sicilia, che non hanno da altre parti, è una cosa che non si crea così, non è solo una norma giuridica. E da loro nasceva già nell'Ottocento, quindi hai le prime cooperative di mutuo soccorso d'Italia nascono in Trentino. Il concetto di autonomia era perché loro la volevano da Vienna. E quindi ascolti queste cose e vedi tutto quello che aveva fatto l'Esfope l'avevano già fatto a Trento 100 anni prima. Perché il Lust von Trient esisteva a Trento e si chiamava Lust von Innsbruck. E quindi loro l'avevano già fatto 100 anni prima. E prima volevano la regione, non gliel'hanno data, loro hanno detto dateci almeno l'autonomia provinciale, non gliel'hanno data e sono rimasti fino alla prima guerra mondiale, quando sono passati dall'altra, eccetera. E quindi hai questa visione, loro hanno la visione, non avendo il problema etnico, hanno puntato tutto sul concetto di che cos'è l'autonomia, come può funzionare e come possiamo difenderla nel futuro. Infatti c'erano alcuni interventi che dicevano stiamo attenti perché tutto quello che abbiamo raggiunto adesso non è che è preso, ricevuto e sarà in eterno. Attenzione, perché le forze centripete da Bruxelles e da Roma sono lì giorno dopo giorno che cercano di strapparti via di nuovo quello che ti è ripreso, e quindi se non ci lavoriamo sopra l'autonomia va a spegnersi. Noi in Alto Adige, anche poi nel gruppo di lingua italiana, viviamo tutto sempre con questa ansia etnica e ci perdiamo di vista il concetto che l'autonomia poi è un'autonomia che vale per tutti, ma è autonomia è un concetto di cultura dell'autonomia che deve far funzionare. Se vedi l'autonomia da Trento, vedi l'epoca di Kessler, che era il politico pre-secondo statuto, con un bilancio provinciale che era un decimo di quello che possono gestire adesso, che però ha fatto l'Università di Trento, e quindi i primi collegamenti con l'esterno, e qui è il problema di nuovo dell'aeroporto, io non posso avere un'azienda di punta in Alto Adige se non posso prendere un manager olandese, perché lui mi risponde puoi anche darmi il doppio dei soldi ma io non vengo perché per venire a Bolzano divento pazzo, io, mia moglie e tutti quanti. E quindi la questione dell'aeroporto è sì i turisti, e poi possiamo anche vedere quanti turisti vogliamo, quanti voli vogliamo, e giustamente una provincia poteva fare queste regole, un privato che ha vinto la gara e gestisce l'aeroporto dice sapete cosa c'è? Da domani mattina arrivano 280 voli e li faccio arrivare, adesso non più dalla Russia, ma da dove vengono basta che mi paghino. E gli aggregatori sono contenti perché questa gente quando arriva da qualche parte dovrà dormire, mentre una provincia poteva modulare questo. Comunque l'aeroporto sono favorevole anch'io, è un modo per poter permettere poi alle aziende, e soprattutto dovrebbe essere anche per l'università, questa era la forza di Kessler, cioè aver impiantato l'università e aver aperto una società che in quel momento era clericale e tutta chiusa, averla aperta al mondo. E quindi da questo punto di vista andare giù a Trento a vedere come loro hanno gestito queste celebrazioni per l'autonomia è stato molto importante, e non avere solo questo sguardo solo etnico-centrico che ci sta un pochino divorando. Concordo in pieno. Vi faccio un altro esempio, per esempio, di cos'è il concetto di autonomia, di cultura dell'autonomia. Noi abbiamo l'autobrennero. E abbiamo l'autobrennero con tutti i suoi limiti, però funziona, ci ha permesso di collegare un territorio che in quegli anni era uno dei più poveri d'Italia e finalmente cominciare a collegarle con i flussi che andavano da nord a sud. In quel momento l'ANAS, che gestiva le autostrade italiane, adesso si è ripresa in quelle dei Benettoni, ma in quel momento gestiva tutte le autostrade italiane, si era rifiutata di fare l'autostrada del Brennero, senza capire che ovviamente era l'asse principale e che ha dato l'asse principale tra l'Italia e il nord Europa industrializzato, e senza quest'asse credo che metà delle aziende del nord-est non potrebbero neanche lavorare, comprese tutte le aziende che sono Brunico dell'automotive, che lavorano per la BMW, per la Mercedes, per la Volkswagen in Germania, senza questi collegamenti. In quel momento l'ANAS aveva detto al territorio: non ci interessa fare questa autostrada. Questa volta di nuovo partendo da Trento, perché avevano capito tramite Kessler che dovevano assolutamente avere i collegamenti, l'autostrada ce la siamo fatta noi. Abbiamo fatto debito, una tonnellata di debiti che non avevano neanche la più pallida idea di come poter ritornare, perché gli studi di quel momento, al famoso Toninelli, quindi costi benefici, dicevano l'autostrada non la userà nessuno e quindi con le tariffe medie che esistono in Italia questa qua non la pagherete neanche in 100 anni. Quello che è successo è che non la sono pagata in 12 anni e tre anni dopo che l'autostrada era partita il ministro dei trasporti ha chiamato il presidente della provincia di Trento, Storia, e gli ha chiesto: vogliamo ricomprarci? Questo ci ha pensato e gli ha risposto: adesso non più. E si sono tenuti l'autostrada con la concessione fino adesso. Purtroppo non l'abbiamo chiusa e ho già sentito ieri la signora, quella un pochino di destra, che ha già detto: ci sono due cose sulle quali dovremmo ridiscutere, una è l'energia e una è l'autostrada. Abbiamo già capito dove stiamo andando. Tanto per dire come l'autonomia va difesa ogni giorno. L'autonomia era: ci siamo fatti l'autostrada. Scusate, non ho seguito tutto, però mi volevo riallacciare l'ultima cosa che ha detto, perché ci stavo pensando prima di chiedere. Volevo cercare di capire quanto a livello nazionale il risultato delle elezioni potrebbe incidere eventualmente nei cambiamenti dell'autonomia. Ha chiesto a te. Quello che è ambito costituzionale, speriamo no. No, e qui ci vuole la sfera di cristallo. Allora, cosa può succedere? Ci sono vari scenari, dipende. Lo scenario più preoccupante è quello di una maggioranza in grado di modificare la Costituzione. E non è uno scenario così impossibile, perché con questa legge elettorale dove i tre ottavi, quindi il 35% dei seggi sono attribuiti con sistema maggioritario uninominale, se una parte fa coalizione e l'altra parte non fa coalizione, indipendentemente dal numero di voti popolari si parte a competere sui rimanenti 65%, ok? Ok, quindi il centrodestra praticamente avrà già uno zoccolo di partenza del 35%, perché i collegi uninominali sono praticamente tutti vinti, diciamo il 30, diciamo il 30%, ok? La competizione è sul 70, se anche si arriva a metà, e non sarà probabilmente metà e metà in termini di voti popolari, ma insomma anche se fosse metà e metà, già ci troveremmo con 30 più 35 fa 65%, siamo praticamente ai due terzi, ok? Quindi la situazione è molto, ma molto preoccupante. In quel caso ci sarebbe il problema di una possibilità di modificare unilateralmente la Costituzione e peggio ancora forse la possibilità di occupare politicamente le istituzioni di garanzia, quelle soprattutto del potere giudiziario, la Corte Costituzionale, il CSM, non dimentichiamo il Consiglio di Stato, sono tutte nomine fatte dal governo, oltre alle autorità indipendenti, tutte le autorità garanti in realtà sono nominate dal Parlamento con delle maggioranze qualificate proprio per consentire una negoziazione tra le forze politiche, se non c'è bisogno di negoziare diventa un problema. Modificherà, questo è l'aspetto diciamo giuridico, la parte politica, se dovesse succedere una cosa di questo genere, andrebbero a modificare lo statuto di autonomia unilateralmente o a intervenire contro l'autonomia? Non credo, sinceramente, perché andarsi a creare un problema in più? Francamente non penso. Però il rischio potrebbe essere chiaramente quello della erosione progressiva della cultura dell'autonomia, che si basa, e ritorniamo al punto di partenza, anche sulla cultura della diversità, sul rispetto della diversità, che è una delle, che è uno dei veri punti culturali su cui c'è una distinzione forte ancora tra la destra e la sinistra, cioè l'idea che ci sia una nazione etnicamente omogenea, che al massimo riconosce la minoranza alloglotta, ma comunque insomma è una concezione etnica anche della nazione italiana. Questo sarebbe sicuramente foriero di tensioni. L'altro aspetto riguarda i rapporti con l'Europa, perché è lì che forse potrebbero esserci maggiori problemi. Nessun governo è così cretino da andare a mettersi direttamente in un confronto contro l'Alto Adige, perché cosa poi? Ma questa autonomia, anche per la posizione geografica in cui si trova, vive di Europa. Senza l'Europa questa autonomia non ha senso, non c'è, non funziona. Vengono poi spesso i ministri, qua si dice sempre la piccola Europa all'interno dell'Europa, con molta retorica, perché poi alla fine vabbè, nell'interno non si pratica tanto, ma lasciamo stare, ma è così. Se ci troviamo un governo ostile o in conflitto con la dimensione europea, questa autonomia ne soffre tantissimo, con possibili anche ricadute in termini di spillover di conflitto etnico, perché allora riemergerebbero forti le voci di chi dice ma siamo dalla parte sbagliata del confine. Se la maggioranza sarà tutto sommato minore, insomma non sarà particolarmente forte, ci sarà un maggiore spazio di negoziazione, e in quel caso il massimo che potrebbe accadere è che per una legislatura o meno, perché magari durerà poco, non si faranno molte norme di attuazione. E vabbè, è già successo nel governo Berlusconi 2001-2006, in cui c'era una maggioranza abbastanza cospicua di centrodestra, praticamente non si è fatta neanche una norma, una forse mi ricordo, comunque praticamente niente, e va bene, andiamo avanti lo stesso, non c'è soltanto questo. Quindi sostanzialmente io immagino che non ci sia un conflitto esplicito, ma c'è un problema di sostrato che potrebbe essere tanto più serio quanto maggiore possa essere la maggioranza di un governo di centrodestra. Non so se ho risposto, perché non lo so neanche io. Poi no, è stato chiaro, sì. Quindi staremo a vedere, insomma, cosa succede. Sì, sì, però comunque è come fare una partita di calcio dove hai già giocato il primo tempo e il primo tempo si è concluso 2-0. Poi, insomma, non è proprio... Però non si può dire che sia una legge elettorale iniqua. Il problema è che questa volta, ed è la prima volta forse che succede, no, non è la prima volta a livello nazionale, perché si era fatto appunto con i governi Berlusconi, la coalizione di centrodestra è stata capace di coalizzarsi e le altre forze politiche no, e questo è un errore gravissimo, perché per distinguersi, torniamo al discorso Magnago, per distinguersi c'è il rischio di affondare, di far affondare la baracca, e qualunque maggioranza troppo forte sarebbe pericolosa, non soltanto una maggioranza di destra, anche una maggioranza di sinistra, qualunque maggioranza è pericolosa, e vivendo in un territorio basato sulla cultura di minoranze dovremmo essere particolarmente critici verso qualunque tipo di maggioranza, etnica, politica, religiosa, filosofica, cioè sempre siano lodate le minoranze, e a maggior ragione se perché le maggioranze hanno sempre la tentazione di usurpare il potere, di qualunque colore siano, quanto più sono forti, tanto più è pericoloso. Ma la proporzionale sarà uno strumento destinato a morire, o appunto a proposito di maggioranze, minoranze, rapporti? Secondo me morirà di vecchiaia, cioè, sì. Non di, non di malattia, andrà così, come la regina Elisabetta. Durerà quanto la regina Elisabetta, probabilmente, cioè in eterno, ma prima o poi, cioè, è un tema così... Tra 46 anni... Sì. Sì, sì, probabilmente sì, però comunque, se, così, ormai è talmente un tema di nicchia e marginale, è antistorico, come la monarchia, cioè, sì, avanti per carità, ma dov'è l'elemento prospettico di questa cosa, di questo strumento? Cioè, la società intorno l'ha già svuotata. Sì, perché doveva essere un correttivo, un periodo determinato, così. Sì, sì, certo che viene applicata. La monarchia continua ad essere applicata. Però mi sembra che in campo sanitario non più, perché sui concorsi dei medici che non viene più richiesto il tedesco, un passaggio intermedio sarebbe quello di avere una proporzionale ma senza recupero, cioè faccio un bando, ma il recupero è come il debito pubblico, no, faccio un bando con la proporzionale perché è scritta nello statuto, quindi prima di cambiare ci pensiamo qua, certo. Se però in quel bando non riesco a coprirlo con le persone di gruppo linguistico, apro all'altro e copro. Il bando successivo è di nuovo proporzionale, ma non recupero i posti da lì. E quindi comincio a scacciare, cioè il principio del fondo rimane e nessuno così si può scandalizzare, però nella pratica se un gruppo per un motivo o per l'altro non è interessato a questa o quell'altra posizione, si va avanti. Adesso quello che succede appunto è invece a debito, cioè tu prendi uno del gruppo linguistico sbagliato, perché bisogna essere pragmatici, bisogna far funzionare la cosa, però poi si sconta al concorso successivo a debito, ma è come, appunto, è come il debito pubblico, non si pagherà mai, rimane là così perché non si troverà, però la finzione resta. Questa sarebbe sicuramente una ipotesi. Nessuno urla più. No, infatti. Sì. Però se un gruppo non vuole, perché ha altri, ormai incredibilmente è cambiato anche l'impiego provinciale, pare sia andato, non è più di moda, cioè certamente se uno non vuole quel lavoro perché guadagna meglio dall'altra parte, è giusto che vada, ma è giusto anche che dall'altra parte non ci siano dei contraccolpi e riusciamo a coprire questo. Poi è chiaro, la sanità diventa ancora più evidente laddove il gruppo di lingua tedesca copre che fa facendo il medico in Germania e in Austria guadagna molto di più, si diverte di più, sta meglio, e quindi i problemi pratici sono che stanno diventando per tutti. Poi se abbiamo dei problemi di traduzione, come ho visto anche per il paziente che parla solo tedesco, là, vuol dire che dovremmo inventarci una figura nuova, come c'è anche negli eserciti. C'è un traduttore in tutto l'ospedale che verrà chiamato quando serve a un medico per fare una traduzione, creiamo un posto di lavoro in più, quindi è benemerito, e abbiamo il suo padre. Un traduttore di supporto. No, ma scusate, quello deve avere la capacità di stare dietro una torre, perché c'è chi si impegna. No, io pensavo che un tema che è sempre sottovalutato è partire dal presupposto che in questa provincia bisognerebbe veramente rendere il bilinguismo alla portata di tutti. Bisognerebbe cominciare a lavorare in questa direzione, perché se tutte le persone fossero in grado di parlare entrambe le lingue, forse decadrebbe anche la necessità di fare una questione, no? di proporzionale etnica. Ma se non si comincia a fare dei progetti che partono dalla scuola, no? Dove tutti i ragazzi escono dalle scuole, a seconda del grado di scuola, con una certa conoscenza della lingua, secondo me questa roba qui andrà a morire, ma morirà veramente come la regina Elisabetta, depauperando completamente la cultura di tutte le Io ho un punto di vista. Perché ci sono i gruppi etnici, sì, ma se in questa, sì, capito, ma se qui fossimo tutti in grado di parlare perfettamente tedesco e italiano, secondo me qualcuno potrebbe anche accedere a livello politico, forse sono persone perfettamente bilingui, anche che hanno valore in più che quello di sapere anche in dialetto. Certo, ma in una società dove perfettamente bilingue sono segregate all'interno di una proporzionale dove la maggior parte delle persone non sono perfettamente bilingue. Proporzionale, sono queste distinzioni etniche, questi rapporti di maggioranza che si mangiano. Certo, certo. Comunque, secondo me, una visione proprio di autonomia condivisa dovrebbe essere naturale, sapere sì. Tutte e due le lingue. Dovrebbe essere naturale. Siccome io pago le tasse qua, io pretenderei o pretendo dalla provincia che mio figlio arrivi in fondo a un sistema scolastico dove abbia. Hai dato ragione? Cioè, sì, dove abbia il grado di tutte e due le lingue. E se in matematica mio figlio non funziona e lo bocciano, uno dovrebbe finalmente essere bocciato anche se non sa la seconda lingua, così si sveglia. Poi bisogna trovare il metodo di insegnamento per arrivare al finale dove, a seconda degli istituti, eccetera, il patentino è automatico. Io arrivo in fondo, non sarà là, che sia sarà lì, ma me lo dico, ma di che lingua parliamo? Perché? Qualsiasi lingua. Se poi un gruppo non vuole avere le scuole di lingua, non vuole avere questo, noi manteniamo il sistema standard perfetto sull'articolo 19, tutto però, su base volontaria. Però sappiamo benissimo che qui la lingua non è la lingua tedesca standard che viene insegnata a scuola, ma quella di comunicazione e quella di anche di lavoro, è così, eh. Anche di lavoro. Non è, c'è una di differenza, Però la lingua di comunicazione vera, anche ufficiale, qui non è la lingua del portoghese, qui è il dialetto. E c'è una bella differenza tra, che è anche più semplice per certi versi, è molto più agile perché ti permette anche di non avere quella rigidità della grammatica tedesca che è veramente complessa. Per fare una frase semplice devi fare un'equazione in secondo grado e avere tutte le concordanze, le desinenze al posto giusto. Quindi ecco, cioè, la lezione di latino è una barzelletta in confronto, però insomma devo dire che la lingua è già un grande problema, non lo dico io, lo dicono i linguisti, cioè qui in Alto Adige non parli il tedesco, il Hochdeutsch, ma devi parlare un dialetto. Quindi siamo già su un'altra dimensione. E questo forse che complica le cose. No, assolutamente non si complica le cose, però se vediamo per scontato che è un problema e non vediamo l'obiettivo da perseguire, lasciamo il problema e nessuno si sforza mai di trovare una via per arrivarci. Siccome le strade sono sempre molto lunghe, ci si impiegano decenni per arrivarci, non è che noi possiamo auspicare di vedere la fine. Io poi sono vecchio. studente, ma uno magari più giovane si è indirizzato in un certo modo da qualche parte si arriva. Cioè io sono veneta, comunque non è la stessa cosa, però mia nonna se gli chiedevi di parlare in italiano non ti sapeva parlare in italiano. Cioè lei conservava il suo dialetto, l'ha tramandato alle figlie, l'ha tramandato ai nipoti. Io quando mi no, ma voglio dire che la lingua delle famiglie si mantiene anche se la società fuori scrive in italiano, parla in italiano. Cioè, sinceramente, da qualche parte bisogna anche partire, secondo me. Forse era questa visione giovani, studiare assolutamente il tedesco in un mondo che va avanti a inglese. È difficile convincere i giovani, tu devi sapere il tedesco, ma cosa mi serve il tedesco? Che mi serve solo qui, perché se vado fuori da qui, vado dappertutto con l'inglese. Se lo dovessero studiare, parlare l'inglese. È così. L'ultima considerazione per esulare, ma mi è piaciuto appunto quello che ha detto Francesca, quando dice noi abbiamo questa cultura della minoranza, cioè del fatto di essere sempre in confronto con un'altra cultura, eccetera. Ed era uno dei pensieri che proprio brevissimi postali che verranno, in cui a un certo punto faceva considerazione, diceva noi come trentini ci siamo impoveriti perché non siamo interconfini. Cioè, quando siamo entrati in Italia, cioè con la prima guerra mondiale e poi l'Alto Adige si è combattuto per i fatti suoi, l'autonomia eccetera, i confini al Parigi, no? Noi come trentini ci siamo impoveriti perché abbiamo perso tutto quel confronto che avevamo con loro quando eravamo dentro dell'impero. Quindi quello che noi vediamo come un problema, dal suo punto di vista trentino, ha detto questo per noi sta diventando una mancanza, ci siamo chiusi dentro come trentini e non riusciamo più ad avere i collegamenti. Ed era ritornato il concetto che dobbiamo aprirci per poterci migliorare. Che è un bello slogan conclusivo al posto di più ci separiamo e meglio ci capiamo, cioè, più ci apriamo e più ci miglioriamo, mi sembra una bella conclusione. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti.